19 dicembre 2011. Allora, io non mi ricordo benissimo cosa ho detto l'ultima volta, però più o meno mi pare che stavamo a discettare sulla possibile natura del linguaggio. Mi sembra, ho fatto le tre... Sì, perché poi ha parlato anche dell'Iliade e dell'Odissea. Sì, quello va bene. Ma diciamo il punto, l'impianto logico era, se non mi ricordo male, era che stavamo esaminando se la funzione del linguaggio, cioè a cosa serve il linguaggio, l'articolazione, ok, quello non ne parliamo più perché l'ho già detto a sufficienza. A un certo punto mi sembra che ho fatto una tripartizione, funzione comunicativa, funzione, mi confondo con un altro corso, funzione comunicativa, funzione espressiva, funzione cognitiva, non ce l'hai, forse prima ancora. Sì, comunicazione, allora, espressivo, cognitivo. Allora, riprendiamo questo. Riprendiamo questa nel senso che mi pare che abbiamo argomentato a sufficienza contro le prime due concezioni, cioè contro il fatto che contro. Cioè, dicendo che è insoddisfacente dire che il linguaggio abbia prevalentemente una funzione comunicativa all'interno della specie, cioè intraspecifica, perché abbiamo visto che molte altre specie animali se la cavano benissimo a comunicare anche senza il linguaggio. Abbiamo detto che è insoddisfacente anche centrare il tutto sulla funzione espressiva, perché l'espressione è in realtà una specie di fenomeno derivato, insomma, di secondo livello, cioè mi esprimo se ho qualcosa da dire, mi esprimo se ho, però, insomma, non, allora, diciamo così, tutte e due quelle concezioni della natura del linguaggio non rispondono bene, non spiegano abbastanza bene perché il linguaggio sia stato, perché la specie umana caratterizzata dal linguaggio si sia più o meno stabilizzata da un punto di vista dell'evoluzione naturale. Cioè, in una visione evoluzionistica, tutte le caratteristiche degli esseri viventi, in qualche modo di ogni specie vivente, è uno strumento per la sopravvivenza. Allora, abbiamo detto, insomma, la velocità, la forza del leone, la vista acuta dell'aquila, tutto quello che vogliamo, la velocità della gazzella, se vogliamo parlare delle prede, come queste cercano di sfuggire ai predatori, cioè tutte queste cose qua, cioè, è chiaro perché è chiaro che è prevalentemente questa caratteristica che ha assicurato la sopravvivenza alla specie. Parentesi, è vero che non tutte le caratteristiche di tutti gli esseri viventi sono spiegabili così, ci sono anche delle cose un po' strane da spiegare, per esempio le corna dei cervi, i cervi maschi hanno tutta questa bellissima caratteristica. Ora, le corna dei cervi obiettivamente non servono a una beneamata mazza, niente, non servono, anzi, sono un intralcio da un certo punto di vista. Se un cervo deve scappare dentro una foresta, se un cervo maschio deve correre veloce, deve scappare o deve inseguire un altro, deve fare delle cose dentro una foresta, obiettivamente le corna gli danno fastidio, cioè si ingambra nei rami, fa del casino. Allora uno si chiede, ma come mai si sono? Allora, non è che, cioè, bisogna stare attenti quando si enuncia il principio che tutte le caratteristiche di ogni essere vivente hanno una funzionalità specifica. Ci sono delle cose che si sono sviluppate o sono degli effetti collaterali di qualche altra cosa, o si sono sviluppate per una certa funzione, però ne intralciano altre. Insomma, quindi non è così meccanico che sia. Però nel caso degli esseri umani il linguaggio è una caratteristica troppo preminente della specie per poter essere, come dire, per non essere collegata, per non doverla collegare con l'evoluzione naturale. Quindi è indubbio che il linguaggio ci deve avere assicurato un vantaggio evolutivo. Allora, se il linguaggio è spiegabile dal punto di vista dell'evoluzione soltanto come una proprietà, una caratteristica degli esseri umani che abbia assicurato un vantaggio evolutivo, fra le tre alternative che abbiamo preso in considerazione è soltanto la terza che può avere, che può essere collegata con questa, diciamo, risposta. Quindi il linguaggio, vuol dire, ha una funzione prevalentemente cognitiva. Che cosa vuol dire che ha una funzione prevalentemente cognitiva? Che anche qui bisogna cercare di capire cosa vuol dire la parola cognitivo, perché cognitivo ovviamente è collegato con cognizione, quindi con conoscenza, eccetera, è uno strumento di conoscenza. In realtà, quando si parla di strumenti cognitivi delle specie animali, non si parla in realtà di conoscenza nel senso in cui ne parliamo noi esseri umani, appunto esseri linguistici, così. Abbiamo, diciamo, la conoscenza è scrivere l'Iliade, l'Odissea, è fare, insomma, diciamo, raccontarci le cose, spiegare come è fatto il mondo, cioè gli animali non spiegano come è fatto il mondo. Come è fatto il mondo. Per le specie animali conoscere il mondo significa prevalentemente avere degli strumenti per agire in questo mondo, no? Per agire nel mondo. Quindi quando diciamo che il linguaggio è uno strumento cognitivo, intendiamo dire prevalentemente che è uno strumento pratico che serve agli esseri umani, che aiuta, aumenta le capacità degli esseri umani di agire nel mondo, cioè di fare delle azioni, di procurarsi il cibo, di insomma, di fare tutte queste, di procurarsi il cibo, di abitare, cioè di occupare un posto nell'ambiente, eccetera, eccetera. Queste cose qua, questo vuol dire cognitivo, questo non vuol dire, non c'è nessuna, non ci deve essere nessun autocompiacimento da parte nostra, di dire, ah, come siamo bravi, noi esseri umani, come parliamo bene, quante belle idee che abbiamo, quante idee sublimi, quanti bei sentimenti, sono tutte palle queste cose qua. Cioè gli animali hanno sentimenti, conoscete le altre specie animali, tanto quanto noi, a volte anche più di noi, eccetera. Quindi dire che il linguaggio è uno strumento cognitivo vuol dire che il linguaggio deve avere assicurato qualche cosa di qualche vantaggio, qualche strumento, e anche qui questo non vuol dire che noi siamo meglio di altre specie animali, cioè, ma data la nostra configurazione, i posti in cui abitavamo centinaia, migliaia, milioni di anni fa, data questa situazione, diciamo così, come dire, il linguaggio è la conseguenza, cioè è una cosa utile dal punto di vista cognitivo, in questo senso, cognitivo pratico, date certe caratteristiche dell'essere umano. È probabile ed è possibile che un animale che cammina con quattro zampe e per staccare l'erba dalla terra e nutrirsi debba avvicinare la propria bocca all'erba stessa, un qualunque ruminante, una qualunque bue, una pecora, gente così. Probabilmente loro non avrebbero avuto tanto bisogno del linguaggio, probabilmente ad un animale così il linguaggio non avrebbe assicurato un grande vantaggio cognitivo. Perché ce l'ha assicurato a noi? Perché noi siamo bipedi. Ed è una situazione anche questa relativamente unica nel mondo, non che non ci siano ci sono tanti altri animali che sono capaci di stare su due zampe, anche il gatto di casa tua, se c'hai un gatto ogni tanto si mette su due zampe o si appoggia al muro, eccetera. I plantigradi, cioè i grandi mammiferi, pelosi, vegetariani, gli orsi, insomma, gli orsi più avanzati. Anche gli orsi spesso se ne stanno in piedi sulle zampe, però anche le scimmie a volte, però in genere nessuno di questi animali ci sta in maniera stabile. Gli esseri umani, e prima degli esseri umani, gli australopitechi, quindi tutta la linea evolutiva che fa capo agli esseri umani, che si estende a 1,5 milioni di anni fa, non ai 200.000 anni dell'Homo sapiens, ma a 1,5 milioni perlomeno, se non di più, forse anche 2 milioni o 3, viene fa tutte queste specie. Ci sono state un sacco di specie di primati che avevano la stazione eretta, cioè che erano, come dire, permanentemente bipedi. Essere bipedi significa questo, adesso questo, sto facendo una piccola digressione, poi chiudiamo la parentesi, però è utile per capire. Si è blaterato a lungo, insomma, su ma quali vantaggi ha portato all'uomo, perché l'uomo, perché essere bipede è stato, insomma, cioè, perché si sono sviluppate delle serie bipedi, perché si sono sviluppate delle serie con la stazione retta, che stanno in piedi, che stanno su due zampe, invece che su quattro. Allora lì tutta una serie di ipotesi fantasiose, la specie umana è nata nel centro dell'Africa, no? E lì ci sono i primi, prima ancora della specie umana, insomma. La savana non c'è sempre stata, nella prima c'erano delle grandi foreste, poi arrivano i grandi cambiamenti climatici, la foresta si disbosca. Allora, in una foresta obiettivamente un essere bipede non fa una gran vita, insomma, cioè, sono come le corna del cervo, cioè sbatte la testa contro i rami più bassi, fa casino, insomma, se la cavano meglio quelli che vanno a quattro zampe, no? Obiettivamente. E quindi può essere che per un certo periodo si siano sviluppati degli esseri bipedi dentro un ambiente, per esempio, di semiforestale, senza che questo gli desse dei particolari vantaggi, insomma. Quindi probabilmente si stavano per estinguere, magari, chi non lo so. Poi qualcuno dice, ma sono robe un po' così, non c'era nessuno lì per dirci come sono state le cose, quindi sono tutte supposizioni. Dice, ma quando a un certo punto vanno via le foreste e arriva la savana, cioè questa grande prateria con dei cespugli, cespuglietti massimo alti 50 cm, un metro, a quel punto, dice, il bipede ha un vantaggio sul quadrupede. Perché? Perché stando in piedi vede più da lontano, quindi qua, e quindi vede l'eventuale predatore prima del povero quadrupede che invece sta a quattro zampe, deve alzare la testa, dice, dov'è quello? Questa è una roba difficile da dire, è una cosa. Il vero vantaggio evolutivo dell'essere bipede sta in un'altra cosa. L'essere bipede ha due grandi conseguenze. La prima è che, come dire, se tu cammini su due zampe, le altre due zampe sono libere per fare un sacco di altre cose, cosa che il povero quadrupede non fa. Cioè, il cavallo ha addirittura degli zoccoloni qua, quindi no, no. Ma anche il cane, il gatto, anche gli altri, la pecora, eccetera, quelli no, la pecora ha gli zoccoli pure lei. Insomma, anche quelli che non hanno, anche gli animali che non hanno zoccoli, diciamo i carnivori, gli ipercarnivori o i carnivori, le zampe davanti sono come quelle di dietro, non è che sviluppano delle cose. Noi abbiamo queste belle ditina, queste 10 ditina così mobili e prensili che possano fare tante cose, dallo schiaffeggiare i figli che ti fanno incacciare al costruire statuette col pongo e tutte cose che si fanno con le dita, all'arrotolarsi le sigarette, cosa che nessun altro animale è in grado di fare, perché siamo bipedi, perché stando in piedi queste due zampe non è che hanno il compito di stare, come dire, prima conseguenza. Seconda conseguenza, non dobbiamo avvicinare la bocca al cibo, perché abbiamo uno strumento che ti avvicina al cibo, alla bocca. Tu lo sai già, tanti anni fa. E questa è la seconda come conseguenza. Ma la terza conseguenza è ancora più rivoluzionaria, e cioè è che aumenta la tua capacità cranica. Ma perché? Che c'entra con essere bipedi la capacità cranica? Beh, intanto è un dato di fatto che Noi abbiamo, Homo sapiens ha una proprietà cranica grande, che all'incirca da 2 a 3 volte, forse anche di più, da 2,5 a 3,5 volte la capacità cranica delle scimmie più simili a noi. Gorilla, scimpanzé e oranghi non sono quadrupedi, quindi stanno e hanno un cervello all'incirca di 500 centimetri cubi. Noi abbiamo un cervello di 1000, 1100, 1200, 1300 centimetri cubi. Perché? Questa è una conseguenza della stazione eretta. Perché, nonostante con alcune notevoli eccezioni, non abbiamo il cranio piatto. Perché non abbiamo il cranio piatto? Abbiamo il cranio allungato verso il dietro, come si dice? Verso la schiena, verso la parte posteriore. Perché stando in piedi, come dire, avendo questa, dovendo assicurare l'equilibrio non su 4 punti di appoggio, ma su 2, sufficientemente larghi, certo, perché i piedi, insomma, a parte le povere donne cinesi che gli strizzano fino a quando sono piccole, ma insomma, diciamo, gli esseri umani normali e non sottoposti a pratiche e torture fasciste hanno i loro bei piedini, da un 37-38 fino a un 45, cioè, come dire, sufficiente per stare in equilibrio. Però obiettivamente non possiamo avere dei grandi scompensi, diciamo, non possiamo avere il peso del corpo tutto proiettato verso l'avanti o verso, come dire, l'indietro. Ed ecco perché, sempre con la selezione naturale, a poco a poco, tra i bipedi sopravviveranno meglio quelli che hanno casualmente un cranio un pochettino più grande e con una parte posteriore un po' più sull'equilibrio. Stiamo in equilibrio meglio, stanno in equilibrio meglio quelli che hanno il cranio più lungo che quelli che hanno il cranio schiacciato in avanti, che non dicono. Quelli tenderanno sempre a sbattere la testa per terra, inciamperanno prima, e quindi la conseguenza è che mangeranno di meno e scoperanno di meno di quelli che hanno il cranio più lungo, e quindi i geni di quelli che hanno il cranio più lungo si sono, si sono trasferiti alle generazioni successive in maniera maggiore. Questo è il meccanismo della selezione naturale. Obiettivamente, quando si ha un cranio più grande di 1,5 volte, di 2 volte, anche di 3 volte, quello di specie simili corrispondenti che non hanno questa cosa, sempre per una ragione di equilibrio, ovviamente la massa cerebrale dentro il cervello, dentro il cranio, cioè il cervello, tende ovviamente a trasferirsi, a occupare la parte posteriore prevalentemente, quindi rimane dello spazio nella parte anteriore prevalentemente. E quindi questa è la ragione meccanica per la quale noi esseri umani abbiamo sviluppato una parte del cervello che non hanno neanche le altre scimmie, cioè gli altri primati simili a noi. Abbiamo questa cosiddetta neocorteccia, e la neocorteccia avvolge tutta la massa cerebrale, ma prevalentemente si situa nel lobo frontale e nei lobi parietali. È il risultato, cioè si producono più cellule cerebrali, più cellule nervose, perché stanno nella parte, perché occupano questo spazio vuoto. C'è più spazio, quindi non c'è un limite, no? Se lo spazio è, come dire, limitato, una eventuale produzione di cellule in più non trova spazio, quindi dopo un po' gli animali smettono, il cervello smette di produrre. Ma se invece c'è spazio, le cellule in più hanno spazio e quindi si organizzano, e sì, tutto questo sono processi lunghini, cioè non è che avvengono in pochi anni, ci vogliono centinaia di migliaia, decine di migliaia di anni, però alla fine. Ed ecco quindi spiegata, ecco la vera, questo è il vero, l'essere bipedi ci dà un, chiamiamolo vantaggio, vantaggio, come dire, svantaggio non si sa, certamente avere un cervello così grosso è ovviamente, sarà un certo, come dire, vantaggio, perché vuol dire che la tua centralina di comando del tuo corpo ti consente di fare una serie di cose che altri animali non sono in grado di fare. La cosa principale che ci consente di fare questa cosiddetta neocorteccia, ovviamente, è quella di parlare. Quindi, ecco, ricostruita a grandissime linee, con grandissima approssimazione, ma diciamo ciò che lega diciamo, il linguaggio da questo punto di vista alla evoluzione naturale. Quindi diciamo, insomma, per concludere questa parte, insomma, il linguaggio è uno strumento diciamo cognitivo, quindi di cognizione, di conoscenza del mondo, ma soprattutto di pratica, diciamo, del mondo. Consente delle pratiche che ad altri animali che non hanno il linguaggio non sono consentite. Adesso possiamo anche, una volta detto questo, possiamo ovviamente recuperare anche le altre due funzioni, in particolare quella comunicativa, quella di comunicazione. Ma a questo punto la funzione comunicativa del linguaggio non appare più come quella fondamentale, appare come una componente, una parte ovviamente importante di una più generale, abbiamo detto, quindi funzione cognitiva del linguaggio. Volendo delineare un po' più in concreto quali siano le componenti, insomma le funzioni principali e prevalenti del linguaggio dal punto di vista, insomma, conoscitivo, potremmo dire varie cose. Allora, la prima cosa è che ovviamente il linguaggio consente di sviluppare in maniera incomparabile, cioè quindi diciamo maggiore, senza confronto possibile rispetto ad altre specie animali, la funzione che potremmo chiamare rappresentativa e simbolica. Allora, anche qui bisogna fare attenzione. Non si deve credere che il simbolismo o le capacità rappresentative siano siano confinate alla sola specie umana. Anche altre specie animali dimostrano di avere funzioni di questo tipo nell'organizzazione del loro corpo e della loro cosa. Basta che tu pensi alle danze nuziali che fanno la gran parte dei mammiferi e degli uccelli, diciamo quelli che noi chiamiamo i rituali di corteggiamento, e qui le corna del cervo vengono utili al cervo maschio, perché per una qualche strana ragione, cioè mentre le femmine umane sono terribilmente sensibili a una serie di terribili puttanate, evidentemente, che poi diciamo si concludono, insomma, generano quasi sempre dei grandi guai per loro, cioè per le femmine umane in primo luogo, ovviamente, che i maschi sono, come sappiamo bene, dei terribili mascalzoni, quasi approfittano di questa cosa, però diciamo quindi la sensibilità delle le cerve femmine hanno una grande cosa, si invaghiscono di questi cazzo di palchi di corna che hanno i maschi sulla testa, e quindi ecco, il maschio che ha più corna, eccetera, e ha più possibilità. Allora, pensiamo agli uccelli, le cose, il piumaggio del pavone, eccetera, eccetera. Allora, se non tutti, una gran parte degli esseri viventi, in particolare le specie, diciamo, gli ordini animali più evoluti, cioè quelli che hanno comportamenti più complessi, come appunto mammiferi e uccelli, anche i pesci ce l'hanno, non è che non ce l'hanno neanche i pesci, ma sono i pesci meno. Comunque, in questi c'è, ci sono tutta una serie di comportamenti che non sono direttamente collegati con che non sono direttamente collegati con la con delle specifiche funzioni, diciamo, biologiche, tipo mangiare, tipo la forza fisica, eccetera, eccetera, eccetera. Sono strategie comportamentali che possono benissimo essere chiamate simboliche. Cioè la seduzione di, diciamo, cospecifici della specie opposta per indurre questi cospecifici o queste cospecifiche all'accoppiamento, cosa che per noi umani risulta difficile che siamo a capire, ma nella gran parte delle specie animali è un comportamento limitato ai maschi, cioè sono i maschi che seducono le femmine, non le femmine che seducono i maschi, come noi ci illudiamo che sia tra gli esseri umani. In realtà anche gli esseri umani sono i maschi che seducono le femmine, spesso con appunto comportamenti di vario tipo, assolutamente, cioè delle cose terribili, delle infami cazzate a cui però, diciamo, le donne sono spesso sensibili, di cui i maschi si approfittano poi di questa specie. Ma invece negli eversi sono i maschi che fanno, però comunque noi abbiamo per una particolare perversione culturale, noi abbiamo trasferito nelle femmine umane, la specie umana ha trasferito nella propria parte femminile tutta questa coreografia di bellezza, di apparenza, eccetera, eccetera. Mentre nei maschi, cioè il pavone, chi ha la coda, è il maschio, non è la femmina. Le femmine sono tutte vestite di messe, hanno una livrea, come si dice, un piumaggio, per esempio, fra gli uccelli, molto, c'erano tutte domestiche, pazzesche, commesse dalla stampa, insomma, mentre i maschi sono tutti gli sgargini, con piumaggi, fanno tutte queste cose qua, insomma, benissimo. Però, collegata poi con questo corredo naturale, quindi il colore del piumaggio, eccetera, eccetera, che in alcune specie diventa, anche qui diventa una cosa, la coda del pavone gli serve solo per sedurre le femmine, perché poi per tutto il resto è una roba che gli dà fastidio, cioè il pavone maschio è totalmente inadatto a fare una lotta, a fare una battaglia, eccetera, perché c'è sta cavolo di coda che intralcia in tutto, però siccome gli serve per, insomma, sedurre le femmine, quelli che ce l'hanno migliori, bla bla bla, insomma, questa è una cosa. Allora, diciamo, non sono soltanto dei puri dati biologici, quindi diciamo colore, forma del piume, eccetera, ma sono tutta una serie di comportamenti, cioè come ti muovi, come diciamo nel piccolo, noi lo vediamo, per esempio, c'è una specie, diciamo, di uccelli che a me fa abbastanza schifo, ma insomma che però sono tra i più diffusi qua nelle nostre città, e sono i piccioni, hai mai visto com'è che si corteggiano i piccioni? Beh, si corteggiano, fanno delle rosse, hanno un comportamento. Si meno tra i maschi, ovviamente, però quando poi c'è la femmina lì che le cose gli fanno, cominciano a fare questo tubo, e si camminano tutti così. Cioè, ora, che cos'è questo? Come lo vogliamo definire? Stalking, appunto, ma siamo o no sul terreno del simbolico? È un simbolo, cioè non è qualcosa che è collegato con, dice, faccio questa cosa, quindi automaticamente mangio, no. Faccio questa cosa, quindi una femmina o più femmine saranno interessate a me, quindi mi permetteranno di accoppiarmi. Ma per fare questo io devo... Comunque legato alla funzione biologica. Cosa? Legato alla funzione biologica. Ah, sì che è biologica, però non è... Tante rappresentative simboliche. No, e come no? E come non è simbolica? Cioè, cioè perché vuoi escludere che il cervellino piccolino della povera femmina piccione non abbia una sensibilità all'apparenza, all'immagine, a quello, e che quindi nella sua testa faccia un cortocircuito tra un certo modo di muoversi del maschio e il, come dire, desiderio sessuale? Questo è già simbolico, questo è già embrionalmente simbolo. Il simbolico non è tipico solo degli esseri umani, è tipico di gran parte delle specie animali. Le specie animali più evolute tutte hanno una sorta di, come dire, chiamiamolo simbolismo, cioè se per, come dire, simbolismo intendiamo un insieme di comportamenti che non è immediatamente e direttamente una delle fondamentali funzioni biologiche, ma è collegato alle funzioni biologiche in maniera indiretta, diciamo attraverso una serie di passaggi, che possiamo benissimo chiamare rappresentazioni. Il cervellino della femmina, come dire, piccione, ha una sorta di modello mentale a cui conforma il comportamento del piccione maschio e quindi si fa sedurre da quello nel gorilla è il gorilla che si batte il petto più forte, quindi il cui possente torace risuona più di quello di altri, o quello che fa le grida, come dire, maggiore, o quello che fa i saltelli, adesso non lo so, perché non sono uno specialista di etologia del gorilla, però insomma c'è in tutti gli animali una sorta di base, chiamiamola rappresentativa simbolica. Qual è la differenza tra l'uomo e gli altri animali? È che nelle altre specie animali questa funzione rappresentativo simbolica è diciamo unicamente, perché non ha altro strumento, è unicamente collegata con il suo corpo. Quindi sono dei movimenti, delle serie di movimenti ritualizzati, però no? Più o meno con un certo modello che segue certe cose, una serie di produzioni vocali, ma come dire senza alcun significato di tipo linguistico, quindi senza doppia articolazione. Quindi il simbolico e il rappresentativo animale è una funzione esattamente collegata con il corpo. Non dobbiamo pensare che questa dimensione sia assente negli esseri umani, c'è anche negli esseri umani, anche nel corteggiamento palese di una donna da parte di un uomo o nel corteggiamento più coperto e nascosto spesso di un uomo da parte di una donna. Ci sono una serie di segnali puramente fisici, puramente corporei, no? Scoccare l'occhiata assassina da sotto una cortina di lunghissime ciglia, muovere il capo in un certo modo, atteggiarsi, assumere un atteggiamento del proprio corpo fisico, avvicinarsi e allontanarsi, eccetera, sono tutte cose molto simili, cioè se anche non, diciamo, tutti quanti sappiamo, ci siamo passati dentro tutti, almeno una parte dei rituali di corteggiamento umani sono non verbali. Ci si guarda, se anche non ci si tocca, ci si sfiora o si immagina di toccarsi, si fanno dei movimenti. E questo è quello che ci accomuna al regno animale, a tutto il resto degli animali. Però oltre a questa componente, chiamiamola corporea, corporale, fisica, che è anch'essa simbolica, è una parte del simbolico che è direttamente a livello corporeo. Ma c'è un'altra parte, un'altra grande parte, ed è quella preponderante per noi, del simbolico, che invece ovviamente avviene ad un altro livello, avviene a livello della rappresentazione verbale. Anche qui con una serie di strategie raffinate, perché corteggiare una donna non vuol dire soltanto ti amo, o quanto sei bella, o che bella gnocca che sei, perché al suo contrario spesso frasi di questo tipo generano l'allontanamento dell'oggetto dei nostri desideri o della fanciulla agognata che ci piacerebbe tanto portarci a letto e magari anche sposare in un eventuale, diciamo, futuro. Quindi bisogna ricorrere a strategie più oblique, anche di tipo verbale. La stessa cosa evidentemente, perché come sono più sapienti di noi maschi, fanno le femmine, quindi si parla d'altro, si parla di cose, però poesia, queste cose qua, certo, se una fanciulla è sensibile alla poesia, il maschio reprime la sua naturale indifferenza, a volte anche il suo naturale schifo per la poesia, e diventa anche lui un po' poetico, a puro scopo, cioè a puri scopi utilitaristici, cioè quello di conquistare ovviamente. Ma dai, che non sono mica tutti così. Tutti no, ma gran parte. Ci sono anche alcuni che sono supposti poetici, ma che invece che comunque lo fanno. È una confusione unica, guarda. Però devo dire sinceramente. Anche perché è giovane, scusa, è giovane, ma non sai quante cazzate mi hanno scritto. Ne sarà, ci sarà passato, certo, ci sarà passato. Ho scoperto che erano i testi delle canzoni di Vasco Rossi. Poi capito. Bisognerebbe spiegare a questi giovani che il legame di Vasco Rossi con la poesia è molto labile, che non è così. Va bene, insomma, allora ci siamo capiti dal punto di vista del punto registrato. No! Cioè, quindi stai attento perché. Allora, dal punto di vista della funzione simbolica e diciamo rappresentativa. Quindi ripeto il concetto. Allora, la funzione simbolica, la componente diciamo simbolica. È una componente complessa che esiste in molte specie animali, è una dimensione che esiste in molte specie animali, però nelle specie animali non linguistiche, cioè in tutte le specie animali tranne Homo sapiens, essa, dimensione simbolica, si esplica e si costruisce prevalentemente sul piano del corpo, cioè sul piano dei movimenti, dei comportamenti e della... cioè di quello che l'animale, quella certa specie animale, ha a sua disposizione. Nel caso degli esseri umani invece si sposta a livello, diciamo, a livello del linguaggio. Ora, che cosa comporta la... Allora, diciamo, in che cosa il simbolismo del linguaggio potenzia o aumenta o caratterizza il simbolico diciamo presente in molte specie animali. Ma insomma direi, penso, prevalentemente in questo, che lo strumento del linguaggio, lo strumento, insomma il comportamento del linguaggio, la produzione linguistica, è in grado di realizzare ben più compiutamente del simbolismo del corpo una operazione che però embrionalmente è già presente anche nel movimento del corpo, e cioè, chiamiamolo, il raddoppiamento del mondo, la costruzione di una immagine del mondo che non coincide con il mondo, che non coincide col mondo dell'esperienza, diciamo, dell'esperienza quotidiana, insomma, dell'esperienza usuale di, diciamo, tutti i giorni, ma realizza una sorta di dimensione parallela della vita, una sorta di vita perlomeno embrionalmente immaginaria. Attenzione, ancora una volta, anche questa non è che sia una componente totalmente assente nel comportamento animale. Nella misura in cui i movimenti e la camminata e la produzione sonora del piccione maschio che corteggia la piccionessa femmina è diversa dal comportamento usuale del piccione maschio quando mangia, quando becchetta per lasciare il cibo per terra o quando fa le altre cose, eccetera. Questo solo fatto, cioè il fatto che siano una serie di movimenti, di immagini, quindi, come dire, mentali, diverse da quelle del normale, fa sì che anche per il piccione si sia in maniera molto embrionale una specie di mondo, di raddoppiamento del mondo, di mondo immaginato, di mondo immaginario. Ovviamente il piccione non ha la minima coscienza di stare compiendo una operazione del genere, ma anche nel simbolismo del corpo, per il solo fatto che il simbolismo del corpo implica una serie di comportamenti corporei differenti da quelli usuali, automaticamente questa è una cosa che eccita che cosa? Al di là della crescita di ormoni nel come il possibile partner dell'altro sesso, non è soltanto l'ormone che cresce, in qualche maniera c'è una sorta di embrionalissima immaginazione. Ma tutto questo nelle specie animali non linguistiche rimane ad uno stadio embrionale, quasi abortito, non genera nessun comportamento specifico. Poi rapidamente c'è la crasi, c'è lo schiacciamento, diciamo, il comportamento simbolico negli animali genera rapidamente il proprio effetto, se stiamo parlando sempre delle cose sessuali, l'eccitazione sessuale del maschio e della femmina insieme, quando questa eccitazione si trova su un piano, si trova abbastanza, come dire, vicina, scoppia il contattaccio e poi si devono sposare ovviamente per riparare il malfatto, ma insomma è buono. Quindi questa, come dire, dimensione simbolica negli animali è sempre lì per svilupparsi, ma non si sviluppa mai, perché raggiunge rapidissimamente il proprio effetto, finito quello non c'è più simbolo che tenga, evidentemente, a questo punto, dopo avere diciamo, scopato ed essersi divertiti come dei pazzi in discoteca, bisogna poi fare la vita normale, mangiare, fare quelle cose. Quindi, no, cioè, la presenza, cioè il fatto che invece se io realizzo questa dimensione simbolica, cioè questo raddoppiamento del mondo, questo scatenarsi dell'immaginazione, lo realizzo con il linguaggio, quindi con un comportamento che non ha relazioni fisiche dirette con ciò che io, ma questo neanche il, come dire, spesso neanche il simbolismo corporeo degli animali ha questa cosa, però il simbolismo corporeo degli animali collegato con certi movimenti particolari, finito il movimento, questo qua finisce. Il linguaggio invece ha questa caratteristica, viene, diciamo, la produzione verbale, la frase, le parole di corteggiamento, siamo sempre a questo esempio qua, potrebbe fare altro, tutta questa cosa genera degli effetti nell'interlocutore o nell'interlocutrice, se colui che fa questa cosa è il maschio, che durano, i cui effetti durano nella mente dell'interlocutrice. Perché? Perché l'interlocutrice si ricorda quello che ha detto il maschio, come il maschio si ricorda quello che ha detto la femmina. E il ricordo della parola è un ricordo meno immediato, meno forte dell'immagine mentale, di un corpo, di una cosa, che però è più persistente. E soprattutto genera delle modificazioni impreviste e imprevedibili all'interno della mente di colui o di colei che ha assorbito, che è stata destinatario del messaggio, insomma, dell'atto linguistico originario, che può rafforzare questo effetto. Quindi la caratteristica della rappresentatività, della funzione rappresentativa del linguaggio, consiste nel fatto che esso ha degli effetti più duraturi, più persistenti e soprattutto più ampi. Mentre la realtà parallela o il mondo alternativo o semplicemente il mondo raddoppiato, come si realizza con un simbolismo corporeo, non solo è limitato nel tempo, perché finito quel particolare comportamento svanisce l'effetto simbolico, ma è anche, diciamo, il mondo immaginario sviluppato è meno complesso di quello che invece si ha con una produzione linguistica. Se io ti faccio vedere quanto sono bello, quanto sono bravo, o ti scocco un'occhiata assassina, dopo insomma finita, cioè, se non c'è quella basta, insomma, no. Se invece io ti racconto tutte le cose che potremo fare insieme nel futuro, come staremo bene, che andremo a Bali, faremo delle cose così, avremo tanti bambini, e comincio a parlarti dei nostri figli e vedremo come saranno così, eccetera, eccetera. E Dio buono, lì c'è tutto un lavoro, perché il mondo si costruisce, questo tu ma però è carino, pensa, e se uno pensa, fa il suo lavoro, eccetera, e naturalmente poi, come dire, insomma, ripeto, gli effetti di questa cosa possono anche essere veramente mortali, però insomma ci sono di fatto, cioè il raddoppiamento del mondo che si ottiene con il linguaggio è un raddoppiamento molto complesso. Il mondo può essere duplicato o in tutte le sue caratteristiche reali o addirittura in molte delle caratteristiche non reali, cioè si possono creare, se no non si capirebbe perché. Allora, detto tutto questo, qual è se questo è vero, cioè quindi se il linguaggio ha come effetti, come fra i tanti possibili effetti, insomma, ma uno degli effetti principali è quello di costruire una dimensione simbolica ricca, consistente, relativamente autonoma, cioè capace di durare anche dopo la cessazione dell'evento verbale o linguistico che ha generato questa cosa, eccetera, eccetera. E tutto questo credo che ci debba far pensare a una cosa che poi se andiamo a vedere, insomma, scopriamo che effettivamente è una delle caratteristiche preminenti del linguaggio, e cioè che il linguaggio è da questo punto di vista uno strumento sovradimensionato, consente di fare un sacco di cose in più di quelle che servono, come dire, per una stretta economia della sopravvivenza. Per una stretta economia della sopravvivenza probabilmente basterebbe che il simbolismo linguistico consentisse agli esseri umani di immaginare in maniera più precisa di altri animali le situazioni future, oppure quello che su cui ho insistito anche sin troppo dal punto di vista dell'esempio sulla sua funzione nei rituali di corteggiamento e quindi di costruzione delle relazioni sessuali e affettive all'interno della specie, ma attraverso il linguaggio il linguaggio è una macchina, un dispositivo che consente di fare molte più cose, infinitamente, incomparabilmente più cose, di quelle che non sono direttamente collegate con l'economia immediata della sopravvivenza o anche con l'economia generale della sopravvivenza e dello sviluppo della specie. Con il linguaggio si fa molto di più, di quello che è indispensabile, di quello che è utile nell'immediato o dal punto di vista della prospettiva generale della specie, anche se questo può essere più discutibile, perché non sappiamo bene cosa sia questa prospettiva generale della specie, ce la stiamo inventando noi, ricostruendo, le cose. Questo è quello che molta, semiotica contemporanea e Umberto Eco in primo luogo vogliono dire quando sottolineano una cosa, e cioè che il linguaggio è inestricabilmente collegato alla menzogna. Per il solo fatto che parliamo possiamo mentire. Sempre per insistere su questo sgradevole parallelo, il maschio può mentire alla femmina quando le racconta tutta una serie di cose bellissime, di prospettive, di sentimenti e di affetti che egli proverebbe, eccetera, eccetera, eccetera, perché in realtà l'unico suo obiettivo è quello di scoparsela, e poi una volta scopata, ciao e ci vediamo un'altra volta, ma si può mentire in innumerevoli circostanze. Io posso raccontare a quelli che non mi conoscono di essere un grande intellettuale, un grande professore universitario e di avere raccolto chissà quali premi nella mia vita, o posso raccontare di aver fatto dei viaggi meravigliosi in posti in cui non sono mai stato, o di aver avuto delle storie con delle donne meravigliose con cui non ho mai avuto, o di avere, insomma, se ne possono raccontare di tutti i colori, perché il linguaggio è uno strumento che consente di costruire questi mondi possibili o alternativi in maniera anche molto convincente. E quindi basta che io costruisca un mondo alternativo e sufficientemente credibile naturalmente, e gli appiccico l'etichetta di fatto realmente accaduto perché questa cosa succeda. Certo, devo come dire, confusione, però. Cosa? Che confusione. E non so, confusione, certo, ma è però il linguaggio è fatto così, cioè non è che possiamo, come dire, prendercela né con noi né con lui, perché il solo fatto forse non è vero che la natura aborrisce il vuoto, come diceva Aristotele, ma la cultura sì, ogni volta che c'è che si ha uno strumento in grado di fare delle cose, è quasi inevitabile che queste cose verranno fatte, prima o poi. Quindi se è possibile scollegare la produzione verbale da una effettiva... Da un effettivo stato di fatto, questa è la menzogna, no? È una produzione verbale scollegata da uno stato di fatto effettivo. Qualcheduno lo farà. Questo non vuol dire che tutti gli esseri umani mentono sempre, ma basta che una persona abbia mentito una sola volta per dire che la menzogna è una dimensione inerente al linguaggio. Certamente, ripeto, bisogna saper mentire, no? Allora, certamente, se mia moglie mi trova un lungo capello biondo sulla spalla della giacca e io le voglio far credere che sia un crine di cavallo che è uscito dal cappotto, come diceva la famosa canzone degli anni 60, non è un capello ma un crine di cavallo uscito dal palto. In realtà c'aveva ragione il tipo nella come canzone, poi c'aveva ragione lui, però insomma, obiettivamente, che un capello biondo femminile sia un crine di cavallo non ci può credere nessuno, solo nelle, come dire, e poi al frisè, poi i boccoli, certo. Quindi se una sa i boccoli poi partito dalla, diciamo, una delle condizioni fondamentali che a cui a volte qualcuno può, ha magari di fatto trasgredito, insomma, se devi contraddire una mora con i capelli tagliati molto corti, non farlo con una bionda con i capelli lunghi fino alla spalla o con i capelli ricci, insomma, in generale. Però sapete benissimo che queste cose, insomma, siccome al cuore non si comanda, e al desiderio meno che meno, non tutti i maschi sono in grado di fare delle cose del genere. Quindi molti ci cascheranno. La menzogna. In realtà il meccanismo della... Allora, quindi bisogna essere, evidentemente bisogna costruire bene, se uno vuole... Però, ripeto, non è immediatamente dato o immediatamente verificabile, data o verificabile, la corrispondenza tra un certo discorso verbale, una certa produzione verbale e lo stato di cose del mondo, lo stato di fatto del mondo, dato che non è... Da questo punto di vista il meccanismo della menzogna è strettissimo parente del meccanismo della letteratura, cioè della finzione, sarà una cosa sgradevole, ma è così, cioè che cosa sono i racconti, prima il mito e poi da quando c'è la scrittura, la letteratura, se non delle delle menzogne, delle menzogne che però, come dire, vedete, hanno un... legato all'immaginario. Certo, hanno un significato sociale fortissimo, perché nel caso del mito sono l'espressione della unità culturale di una comunità, del proprio immaginario, della propria cosa. Eppure, no, adesso arriviamo noi moderni e con grande, come dire, sicumera, diciamo, prendiamo in giro gli antichi o diciamo, dileggiamo i popoli, le culture orali contemporanee, cioè, ma sappiamo, ma Zeus non è mai esistito, ma gli dei non sono mai esistiti, ma come, ma i centauri, ma le ninfe, ma che dici, ma che cazzate, ma tutti gli e però quelli, e però noi siamo figli prevalentemente di una cultura che credeva profondamente negli dei dell'Olimpo, nei centauri, nelle ninfe, ci credeva profondamente, e questa loro credenza, e poi le critiche fatte a questa credenza, ma se non c'erano queste credenze qua, non ci sarebbero state neanche le critiche a queste, diciamo, credenze, no? E quelle sono, diciamo, la cultura greca è quella che in gran parte è quella che ha dato origine, e ancora oggi, se vogliamo capire qualcosa della nostra cultura, dobbiamo andare a vedere che origine ha avuto e come sono nati, come erano sviluppati certi concetti nella Grecia, eccetera, eccetera. Allora, primo, diciamo, ridondanza, diciamo, del linguaggio rispetto al mondo. Ridondanza in due sensi. Il mondo è ridondante rispetto al linguaggio. Cioè il linguaggio, essendo una produzione di catene sonore, di catene di suoni, di una certa durata, per quanto lunga, limitata. Voi vi salvate, perché tanto sapete che Caronia più di 3 ore non può parlare, perché l'orario della lezione è quello, quindi sono 3 ore, cazzo, non si scappa. È evidente che qualcosa del mondo scapperà sempre rispetto al linguaggio, no? Quindi il mondo è ridondante rispetto al linguaggio, o se vogliamo dirla in altri termini, ma è la stessa cosa, il linguaggio è sempre insufficiente rispetto al mondo. Ci saranno sempre situazioni e aspetti del mondo che non hanno un corrispondente linguistico. Io potrò impegnarmi a costruirlo, questo corrispondente linguistico di queste cose, però diciamo il compito sarà infinito, perché ce ne saranno sempre nuove di situazioni, di cose, eccetera, che non sono ancora state mai dette. Questo non vuol dire che non sia stato fatto già qualcosa di simile a questo, ma specificamente, se io dovessi raccontare a un'altra persona tutte le lezioni che ho fatto a Brera da quando ci insegno ad oggi, non esaurirei mai il compito, perché ogni volta, anche in una cosa così stupida come fare una lezione, eccetera, ma come una chiacchierata fra gli amici, qualunque descrizione linguistica per forza di cose taglierà fuori tutta la ricchezza di robe, tutti i movimenti piccoli che uno ha fatto, tutti i pensieri che c'erano nella testa di chi parla mentre quello che parla, nella testa di chi ascolta mentre ascolta, insomma, e quindi io tutte le volte, mi sembra ovvio, insomma, diciamo, il mondo è ridondante, il linguaggio è insufficiente rispetto al mondo, ma guardate che paradossalmente è vero anche il contrario, il linguaggio è anche ridondante rispetto al mondo, perché? Perché proprio perché consente di mentire, cioè di immaginare delle cose che non sono successe, di descrivere delle cose che non hanno mai avuto luogo e di farlo come se avessero addirittura avuto luogo davvero, questo vuol dire che c'è una produzione di, come dire, significati, di significanti, cioè di parole che significano qualche cosa, che non hanno un vero significato, nel senso che non hanno una corrispondenza con il mondo reale. Quindi, se volessimo rappresentare la cosa graficamente, potremmo dire che la situazione situazione tra il linguaggio e il mondo è la seguente. Il linguaggio e il mondo si sovrappongono ovviamente per una parte, ma c'è sempre una parte del linguaggio che sfugge al mondo e una parte del mondo che sfugge al linguaggio. Va da sé che quella situazione che ho disegnato adesso alla lavagna non è statica, è dinamica. Le due sfere, i due cerchi vanno avanti e dietro e vengono, ma quello che possiamo escludere che mai succeda, possiamo essere sicuri che non succederà mai così, che i due cerchi non saranno mai completamente e perfettamente sovrapposti. Allora, io credo che basterebbe questa sola cosa per convincerci che una delle concezioni più diffuse del linguaggio è, non diciamo falsa, ma sicuramente inadeguata. Ed è quella, quella che possiamo definire come la concezione denotativa del linguaggio. Il linguaggio denota il mondo, si dice. Il linguaggio descrive il mondo. Questo non può essere vero né da un punto di vista fenomenico, cioè né se noi esaminiamo il linguaggio così come lo possiamo esaminare oggi. No? Non è vero. Il linguaggio non descrive il mondo. Il linguaggio costruisce un mondo immaginario, raddoppiato, che ha una serie di somiglianze, che ha una serie di corrispondenze con il mondo reale, cioè con l'esperienza reale, non solo con l'insieme degli oggetti, ma con l'insieme delle situazioni che ci circondano. Questo è il mondo, non sono soltanto oggetti, il mondo sono anche fatti, sono anche relazioni, sono anche avvenimenti, sono anche... Bene, certamente il linguaggio può descrivere una parte di questi, ma la sua caratteristica non si esaurisce in questo, perché può fare tutta una serie di cose che con il mondo reale non c'entrano. La parte del cerchio linguaggio che non c'entra nulla col mondo. Ma sarebbe questa concezione è sbagliata anche da un punto di vista della filogenesi del linguaggio, cioè dell'origine genetica, delle probabili ragioni per le quali il linguaggio è sorto, non perché qualcuno lo abbia costruito per questo, ma le ragioni, come abbiamo detto all'inizio della lezione, di tipo evolutivo. Il linguaggio non è nato principalmente per descrivere il mondo, è nato certamente per conoscere il mondo, ma è nato per agire nel mondo. Il linguaggio è prevalentemente uno strumento di azione. La sua ricchezza fa sì che a volte noi equivochiamo, ci sbagliamo e pensiamo che sia possibile qualificarlo così, cioè come un qualcosa che descrive il mondo, perché certamente una parte del lavoro del linguaggio consiste anche in questo. Il linguaggio serve anche per mettere in relazione delle parti del mondo con delle produzioni linguistiche. Ma non può essere soltanto questo, il linguaggio è prevalentemente uno strumento di azione. Parlare vuol dire agire. Quando noi parliamo, in qualche maniera agiamo, facciamo sempre una certa azione. Su questo punto tornerò. Dietro a quella che ho prima chiamato la concezione denotativa del linguaggio, ci sta anche un altro sogno, però. pericoloso, io credo, ma bisogna dire qual è, insomma, sennò, ed è il sogno dal quale è nata, dal quale è nata molto tempo fa, con la filosofia, il sogno dal quale è nata la logica. Ed è la concezione logica del linguaggio. La concezione denotativa del linguaggio ha una conseguenza, non automatica, soltanto possibile, ma che sia comunque verificata, almeno nel pensiero occidentale, non so dire se in altre tradizioni culturali la logica abbia un significato paragonabile a quella che ha avuto nella nostra cultura, ma nella nostra cultura ha avuto questa funzione, insomma, ha avuto questo effetto, la concezione denotativa del linguaggio, e l'effetto è stato quello di pensare che il linguaggio avesse una struttura non soltanto descrivibile, ma esplicitabile nella forma di una struttura che oggi possiamo dire, col senno di poi, di tipo matematico, cioè di tipo descritto. Allora, e siamo sempre alla idea che il linguaggio descriva. Allora, come il linguaggio descrive il mondo, così è possibile descrivere il linguaggio con una serie di asserzioni messa in fila una dietro l'altra e, come dire, dotate di una struttura assolutamente, diciamo, totalmente razionale, cioè con una razionalità. Esattamente come, insomma, nella cultura occidentale il parallelo possibile, il parallelo che è possibile ma che si è realizzato, è quello fra la logica e la matematica. Attenzione, l'identificazione tra logica e matematica è avvenuta tardissimo nella cultura occidentale, è arrivata a metà dell'Ottocento con un signore inglese chiamato George Boole, ai tempi di Aristotele, quindi IV secolo avanti Cristo in Grecia. Non c'era questa identificazione tra la logica e la matematica, però si pensava che la matematica, diciamo, il linguaggio avesse una ossatura, uno scheletro, una struttura che era esattamente simile a quella della matematica, cioè con dei ragionamenti in cui si partiva da certe ipotesi e si arrivava a certe conclusioni con un metodo proprio brutalmente deduttivo, che fosse la deduzione, che la deduzione fosse il modello del linguaggio. Questa è la concezione che potremmo chiamare, allora, non solo quindi c'è una concezione denotativa del linguaggio, cioè il linguaggio denota il mondo, il linguaggio descrive il mondo. Ma possiamo dire c'è anche una concezione logicista, o potremmo dire in termini, sì, cioè che il linguaggio è fatto come una logica, potremmo dire con un termine contemporaneo che certamente ai tempi di Aristotele non c'era e neanche ai tempi di Boole c'era, potremmo dire una concezione algoritmica del linguaggio. Adesso l'algoritmo è un concetto che è stato sviluppato con la nascita dell'informatica, quindi a metà degli anni 30 del secolo scorso, e un algoritmo è la descrizione di una operazione fatta in maniera sequenziale, cioè passo dopo passo, e in modo così esplicito e così chiaro che a chiunque, anche ad un idiota, sia possibile seguirla. un buon esempio di algoritmo accessibile anche a chi non sappia l'informatica è una ricetta di cucina. Scusa, non ho capito, eh? Una ricetta di cucina. Ah. Una ricetta di cucina è una specie di algoritmo. Dice. Prendi i seguenti ingredienti. Cipolle, grammi tot. Burro, grammi tot. Spezzatino di vitello, grammi tot. Rosmarino, foglie numero 2. Eccetera, eccetera. Poi ti dice, prendi la carne, fai questa cosa, fai rosolare il burro a, diciamo, l'approssimatezza, il carattere approssimativo delle ricette di cucina così come le conosciamo, non vuol dire, si potrebbero rendere così precise, dice, riscalda non a 200, a 199 gradi il forno, tieni per 12 minuti e 37 secondi, cioè posso specificare in modo tale, e quindi in questo modo anche un computer stupidissimo potrebbe in qualche modo, se gli diamo i sensori, cioè i collegamenti necessari con cucina, potrebbe cucinare, no, potrebbe fare la ricetta. Questo è un algoritmo. Ora, in tutta la filosofia, in molta della filosofia del linguaggio del Novecento, c'è questa, questa idea, cioè che il linguaggio in fondo non sia altro che un algoritmo. E detto, insomma, adesso ve lo dico così, poi ve lo spiego meglio, non so se ce la faccio magari nell'ora dopo, insomma, diciamo, la più diffusa teoria linguistica contemporanea, che è quella che ha maggiore successo, che è la linguistica di Chomsky, cioè la concezione della grammatica generativa trasformazionale di Chomsky, in fondo è una concezione algoritmica del linguaggio, insomma. Vede il linguaggio come un algoritmo. Ora, naturalmente, le due cose vanno di pari passo, concezione algoritmica e concezione denotativa. In genere chi è sostenitore di una concezione denotativa del linguaggio è anche sostenitore, o può facilmente esserlo, di una concezione algoritmica. Perché se effettivamente il linguaggio è qualcosa che descrive il mondo, si può pensare che lo possa fare in maniera algoritmica. Allora, naturalmente non c'è bisogno che vi dica quanto siano profondamente errate e pericolose entrambe queste concezioni, perché impoveriscono tutte e due le sfere, sia quella del linguaggio che quella del mondo. Per poter sostenere concezioni di questo tipo bisogna ridurre il mondo a una serie di scheletrini, di accadimenti no? ben poco ricchi, e anche ridurre il linguaggio a qualche cosa. In questo senso, obiettivamente, una macchina potrebbe benissimo parlare al posto nostro, perché non sarebbe, se il linguaggio non è altro che la produzione, che una produzione di sequenze fonetiche o scritte di suoni o di segni grafici, a partire da certe regole, da un numero limitato di regole, come con gli assiomi di Euclide si costruisce tutta la geometria di Euclide, così con poche regole, dice Chomsky, si costruisce quella che lui chiama la grammatica universale. Va da sé che tutte queste concezioni sono concezioni, poi aggiungiamo l'ultima caratteristica, universaliste del linguaggio, cioè questa struttura algoritmica del linguaggio non sarebbe tipica di una, non ci sarebbero algoritmi diversi per tutte le lingue umane, ma al fondo si potrebbe trovare un algoritmo unico che spiega tutte le lingue umane. Questa è esattamente la posizione di Chomsky, che per tutta la sua vita si è dedicato alla ricerca di quella che egli ha chiamato la grammatica universale. La grammatica universale di Chomsky, grammatica che non è mai stata trovata, che Chomsky stesso e nessun altro ha, come dire, trovato, io dico per la semplice ragione che non esiste, è impossibile che esista, quindi c'è una ragione per cui non è stata trovata, ma nel loro programma di ricerca c'era questo, voleva dire esattamente trovare un piccolo insieme, relativamente piccolo insieme di regole, tali che queste queste regole potessero generare tutte le lingue del mondo. Poi certamente ci sono i suoni diversi, le grammatiche, cioè questa grammatica universale si articola in maniera diversa nelle singole lingue, ma diciamo ci sarebbe da questo punto di vista una grammatica, una grammatica universale. Quindi, per riassumere, concezione denotativa, concezione algoritmica, concezione universalistica del linguaggio, sono tre tra le più, tutte queste vanno, e diciamo, la tentazione di, io dico ridurre, ma evidentemente chi sostiene queste cose non userebbe il termine ridurre, io dico ridurre, l'idea di ridurre il linguaggio a uno scheletrino di questo tipo è una tentazione presente da sempre e tanto più presente oggi in quanto l'avvento delle nuove tecnologie digitali ha dato questa e ha fornito accidentaccio una metafora diciamo insperata a tutti i sostenitori di queste teorie, cioè la metafora del computer. Il linguaggio è come un computer, la mente è come un computer, tutta la gran parte della filosofia della mente contemporanea detta cognitivismo è nata su questa ipotesi, che adesso viene messa in discussione da alcuni settori, ma dagli anni 50 in poi, quando è nata la corrente di ricerca detta cognitivismo, il cognitivismo si è retto a lungo sull'assunto, sull'ipotesi fondamentale che il linguaggio fosse come il computer, ed è per questo che i cognitivisti erano interessati all'intelligenza artificiale, perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale avrebbe, secondo loro, gettato nuova luce sui meccanismi proprio della mente umana, della cognizione, diciamo, come dire, umana. Ma addirittura oggi c'è qualcuno che ha fatto un passo ulteriore e addirittura prende il computer come metafora dell'intero universo, e questa si chiama la tesi dell'universo computazionale. L'universo non è altro che un gigantesco computer, tutto ciò che succede nel mondo, quindi anche, e per certi versi prevalentemente, i fenomeni della vita, quello che succede nella vita, tutto questo è computabilizzato. Computabilizzabile, sì. Computabile, nell'universo computazionale. Tutto è computabile. Cioè, la vita stessa non sarebbe che un insieme di calcoli, no? Fatti da Matrix è diverso, perché Matrix è un'illusione, ma l'universo è una finzione, l'universo, come puoi dire, è una finzione fatta dalle macchine. Sì, però scrivere tutto. Sì, ma certo, se non fosse che anche l'universo di Matrix è un universo computazionale, poi in realtà il modo in cui i film sono stati fatti non è quello, ma è solo, diciamo, l'idea che c'è dietro è che queste macchine abbiano costruito sulla stessa cosa tutto con dei programmi di calcolatore. Ora, è ovvio che tutto ciò che è costruito con dei programmi di calcolatore è computabile, è stato computato, quindi è ovvio che è computabile. Il dubbio è se il mondo sia davvero così, cioè se l'universo sia davvero così. Io mi permetto di dubitare per il semplice fatto che la teoria fisica delle particelle, della fisica subatomica che spiega questa cosa, che è la meccanica quantistica, la teoria quantistica in realtà diciamo afferma proprio che il comportamento delle singole particelle subatomiche non è computabile, perché io non posso mai sapere, non posso mai misurare esattamente dove sta una particella se vado a misurare la sua velocità, e non posso sapere a quale velocità va se vado a misurare la sua posizione. Ma questo che cosa vuol dire? Che dal punto di vista dell'accessibilità umana io non posso fare nessuna computazione classica su queste particelle, posso solo dire è probabile che questa particella stia da qui a qui e che abbia una velocità che va da qui a qui, ma tutto quello che io posso dire è questo. e supporre che in realtà dietro a questa mia impossibilità di capire la particella ci sia dietro una specie di metafisico stato, come dire, obiettivo della particella, è privo di senso, e Kant ha già fatto, ha già, diciamo, liquidato questo problema, dicendo può darsi che ci sia un nucleo della realtà stabile, eccetera, eccetera, ma che lui ha chiamato noumeno, ma questo tipo di realtà è inconoscibile per noi esseri umani, noi possiamo conoscere soltanto dei fenomeni. E a livello fenomenico la fisica quantistica ci dice che le particelle elementari non sono computabili, nel senso classico. Poi certamente i computazionalisti, cioè i sostenitori dell'universo computazionale, dicono ma noi facciamo una computazione diversa, facciamo una computazione quantistica, ma ovviamente barano secondo me, perché non puoi fare nessuna computazione quantistica in senso rigoroso, cioè puoi solo... Allora, il riferimento alla meccanica quantistica mi spinge a fare una breve pausa perché mi pare che vi ho fatto fondere il cervello. No, però posso farla. Facciamo una pausa. Ragazzi, io li ho visto anche l'altra volta che